Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I had a way then, losing it all on my own. Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo. The queen has been overthrown. And I'm not sleeping now. Si comincia! It's too hard to beat. And I'm not keeping now. The strength I need to push me. You show the lights that stop me. Turn to stone. You shine me. Bella questa palla, al centro c'è Torres, ecco il pallone per Xavi, Menes, 1-0. Ma sì, ho fatto un gol, però volevo vincere questa partita. Ho fatto un gol, ma non è che mi sono sentito bene stasera, quindi cerco ancora di lavorare per migliorare il mio rendimento sul campo. Ma diciamo che tutte e due volevamo vincere la partita. È vero che se vincevamo stasera eravamo quinta, ma c'era domenica prossima, c'è ancora una partita in casa e dobbiamo ritrovare la vittoria, soprattutto qua a San Siro, perché i tifosi ci hanno bisogno. Arriva un altro traversone in Agatomo, la palla è fuori per Obi che la controlla. Obi con il sinistro, cioè Obi, 1-1. Diciamo che siamo contenti per il gol, però ci tenevamo a vincere e questo non siamo riusciti a ottenerlo, quindi siamo un po' rammaricati perché veramente volevamo portarci a casa i 3 punti. E Sharawi, straversa clamorosa! Montari, sbaglia Montari, Icardi però sta a partire, 1 contro 1, Icardi in area di rigore, Icardi, Diego Lopez salva! Franco Piattanino, il nostro autore, Roberto Scaltriti, regia, Daniele Bonamici, redazione, Pierluigi Pardo al telefono, voi con le vostre telefonate, 800 24 00 24, il numero verde naturalmente. Ciao Pier. Ciao, come va? Ma non sono così depresso per il derby di ieri, a me non è dispiaciuto, oggi leggo il derby degli errori, il little derby per la Gazzetta, no. Non so, potete per Repubblica, ma non ho visto una partita così orrenda. Il pareggio secondo me ha cambiato un po' l'universo psicologico della partita, cioè, siccome sono due squadre che avevano bisogno di vincere per darsi una scossa in classifica anche dal punto di vista psicologico, questo pareggio invece le inchioda a questa terra di mezzo di una classifica così. La partita, sono d'accordo con te, non è stata brutta in senso assoluto. D'altra parte io sapevo che finiva 1-1, l'avevo dichiarato, quindi non me l'aspettavo. Sì, hai ragione anche. Infatti, io credo che ha fatto 0 finora, fra l'altro. Hai fatto 0? Credo che ha fatto 0, non sto scherzando. Beh, fare 0 è difficile come fare 13, lo sai benissimo. Sono delle cose incredibili, poi per alcune cose abbiamo voluto fare i fenomeni, io e Capuano. Avete fatto i fighi, avete giustamente pagato. No, però derby, dai, teso, tattico, fisico, nervoso, un discreto thriller molto italiano. Preferisco roba così rispetto a Napoli-Cagliari, che mi ha ricordato... Non so se hai presente quelle fiere di paese, no? Ogni colpo è una bambolina. Sì, anche se poi... c'è, insomma, siccome ci sono due misteri nel cervello, uno destro e un altro sinistro, c'è anche una parte fanciulla che vuole divertirsi a vedere gol e vedere emozioni. E Napoli-Cagliari dal punto di vista dell'entertainment, come dicono gli inglesi, è stata una partita sicuramente molto piacevole. Per il tifosi del Napoli un po' meno, perché insomma veramente io credo che sia stata un'occasione buttata clamorosa. Questa deve essere una giornata in cui il Napoli recuperava su Juve e Roma eventualmente, non dove perdeva punti, e credo che questa partita certifichi abbastanza chiaramente che la lotta è a due, perché ma non per il distacco in classifica, perché poi il margine potrebbe ancora essere recuperabile, che altro per la mancanza di personalità che il Napoli ha. Però Pier, anche dal punto di vista numerico, il Napoli ha meno 9 dalla Juventus, recuperare 9, vedi il Napoli come ha giocato ieri e quali difetti congeniti ha, vedi la Juventus in questo momento, magari in un'altra vita li recupera 9 punti a Juventus. È un mondo il nostro del calcio italiano degli ultimi anni, col famoso record di Conte dell'anno scorso, in cui le grandi sono veramente grandi, cioè pensare che possano perdere punti, ecco, pensa a quello che è successo l'altro giorno all'Olimpico, no? La Lazio, squadra di alta classifica e con un buon morale, con una buona condizione psicologica, gioca con la Juve e perde 3-0 in campo. Sì, la dimensione è quella. Già i punti che si perdono, che le grandi perdono, sono pochi. In più, poi, se il Napoli comincia a pareggiare in casa col Cagliari, che parliamo? Ieri comunque abbiamo visto qualcosa che non si vede mai su un campo di professionistico, cioè il Cagliari che prende un gol su rimessa laterale con le mani, cioè, e Zeman che dice, sapevo mica che questo tirava le rimesse 50-40 metri. E vabbè, succede anche questo a Zemanlandia. Senti, ci fermiamo un secondo per il traffico. Per il traffico 800 24 00 24 è il numero verde. Poi arriviamo sul derby, parliamo della Roma. A proposito, c'è un caso Maicon, a quanto pare, alla partenza della Roma per la trasferta di Mosca. Vi raccontiamo tutto dopo. Tutti convocati. So quello che si prova, perché è capitato anche a me, insomma, di farne, ma anche di sbagliare, per cui insomma deve stare sereno. È un peccato, perché quelli sono proprio i suoi gol, i suoi tiri, insomma, fosse stato dalla parte opposta, ma sul suo piatto lui ci ha abituato a bellissimi gol da quella posizione. Penso che sia stato anche bravo a cercare di alzarla, perché insomma alzandola avrebbe segnato sicuramente. Forse mi dicono che gli sia battuta un po' male davanti e l'alzata e ha preso la traversa, insomma, ma Stefano è bravo, reagirà, si allenerà bene, magari troverà il gol domenica. Abbiamo cambiato il modulo, abbiamo lavorato 5 giorni e per aver lavorato 5 giorni insieme io pensavo avessimo più difficoltà nello stare in campo come una squadra, invece questo l'hanno fatto bene, di questo sono felice, hanno avuto un ottimo spirito e questa è un'altra cosa importante. Quindi per me è una serata positiva, a parte che avremmo voluto vincere, però è una serata positiva. Pierluigi Pardo, le facciamo due chiacchiere con Giorgio Porrà? Oh no, sono commosso, guarda, commosso no, perché mi devo commuovere? Ehi, a sfogaritate, come va? Ma dunque, io innanzitutto grazie della convocazione, grande privilegio. No, io vivo in uno stato di profonda prostrazione spirituale da quando un malaugurato contrattempo mi ha impedito di partecipare alla festa di matrimonio di Pardo. Siccome mi hanno parlato di una cosa tipo Studio 54 in New York con Andy Warhol e Jackson Pollock, io ho vissuto malissimo questo forfè. Sì, tra l'altro noi avevamo anche Lenoir Casalegno e Barbara D'Urso oltre ai suddetti Warhol e Pollock. No, a parte tutto, tocca farne un'altra, Pierluigi, salutiamo e ne faremo un'altra. Andremo a vincere. Ehi, a Porrà, che bello, che gioia, il partito Dali, eh? No, la gioia è mia che da tempo sto apprezzando il tuo tentativo di fare grande televisione, di contaminare l'alto e il basso, di fare sempre qualcosa di selvaggio, di sentimentale, le citazioni, no? E io sono veramente compiaciuto di tutto questo e rifletto che insomma quel pezzo di strada che abbiamo fatto insieme sta producendo frutti copiosi, ecco. Spero che tu la pensi allo stesso modo. Io la penso allo stesso modo, questo mi emoziona, siamo tutti figli dello sciagurato e devo dire che lo sciagurato era bellissimo, ma Giorgio Porrà è meglio. Cioè, lo sciagurato racconta soltanto una piccola parte della bellezza di Giorgio Porrà, e questo è dopo questa carrambata meravigliosa. Degli adolescenti. Dopo questa meravigliosa carrambata. I Cagliari che lo vogliono sfruttare da pazzo. Devo anche dire che Luigi è l'unico del quale tollero questo tentativo di imitare la cadenza capitanese. Sono che ci provano con risultati sciagurati. Lui è l'unico che un po' si avvicina e poi è per Luigi, insomma, quindi si può permettere qualsiasi cosa. Anche questa cosa che ogni tanto mi manda un po' in bestia, però da Pierluigi l'accetto. Perché il mondo, questo qui è un mondo pieno di gente che si fa i complimenti. No, io e Porrà ci chiamiamo, ecco, cioè, lo diciamo pubblicamente, tanto ci rendiamo conto che abbiamo no, è la verità. Outing totale, vabbè. Però veramente ci chiamiamo, ecco, cioè, altre volte facciamo i complimenti di circostanza, qui veramente è proprio amore fisico, no? Pure essendo Porrà, diciamo, uno dei massimi. Vedo che poi Cassano è geloso. Cassano è geloso, Pardo. Dai, Cassano si ingelosisce come una bestia. Giorgio, ti ha fatto così schifo il derby di ieri sera? Devo dire che che non mi aspettavo una riedizione del match del Azteca del 70, però qualcosina di più sinceramente sì. Prima al TG cercavo di ragionare attorno al bicchiere mezzo pieno e riflettevo che perlomeno si è vista una corsa accettabile, si è vista dell'intensità, però sul piano della qualità proprio davvero davvero davvero poco. Insomma, quelli che dovevano garantirla tipo Kovacic sono rimasti un po' invischiati, un po' ingabbiati da alcune situazioni tattiche che naturalmente andranno riviste. Mancini ha provato più volte a sollecitarlo a trovare la posizione, ma insomma lui ha quasi sempre galleggiato in periferia. Io sono un fan della prima ora di Kovacic, quindi mi piacerebbe che riuscisse a diventare quel giocatore strategico attorno al quale l'Inter insomma sta lavorando ormai da tempo, quindi io spero che Mancini riesca, come dire, a trovare il modo di diventare una sorta di giocatore universale, un giocatore in grado di fare, no, il box to box, come dicono insomma, i miei colleghi, quelli che si occupano di calcio internazionale. Però al momento siamo ancora un po' distanti. Alle prove tecniche di trasmissione su Kovacic. Sì, e poi insomma, però io mi aspettavo qualcosa in più, diciamo in generale, dall'Inter come atteggiamento. Anch'io. Capisco che l'esigenza di Mancini, l'ha detto anche nel post, era quello di capire se l'Inter è in grado di ragionare da squadra, e su questo mi pare che abbia avuto delle risposte confortanti. Però pensavo che trovasse il modo di andare in porta in maniera diversa rispetto a quello visto ieri, anche se Mina insomma è stato bravo a impedirlo, però pensavo a ragionamenti più verticali, a una superiore rapidità d'esecuzione. Insomma, invece per lunghi tratti abbiamo visto il possesso elaboratissimo della vecchia Inter e poi tanti palloni persi, insomma, la circolazione è sempre difettosa, ma lì è proprio un problema di qualità, di sì. Deficit di qualità là in mezzo. Sì. Mancini avrà tanto da fare, è difficile aspettarsi comunque, come dice lui giustamente, tanta roba in 5 giorni, modulo cambiato compreso, e poi tanti giocatori in cerca d'autore, uno è Kovacic, un altro può essere Guarin, un altro continua a pensarlo, Hernanes, che è entrato nel secondo tempo. Vittoria di tappa alla Juventus, Pierluigi. Ma per distacco, vittoria di tappa alla Juventus. E la Roma che prova a resistere, fino a quando non si sa. Vittoria di tappa, premio della critica e sensazione di qualcosa di completamente nuovo, perché comunque la rivoluzione delle ultime partite con la difesa a 4 apre degli scenari molto interessanti, anche in chiave europea. Quindi oggi non sappiamo ancora dirlo, aspettiamo una controprova e forse non è il Malmo, con tutto il rispetto per il sud della Svezia in tutte le sue sfaccettature, non è il Malmo, diciamo, il test più significativo, però insomma la sensazione che da 2-3 partite, da quando si è visto il trequartista, da quando la Juve si è messa a giocare a 4, ci sia una fluidità in mezzo al campo e una libertà veramente al potere, un'energia al potere che prima non c'era, ingabbiata in un'idea di calcio molto bella, che ha funzionato, almeno in Italia ha funzionato alla grande, di Conte, di un calcio aggressivo, di un calcio spesso più di riflesso che di proposizione, bellissimo, che ha funzionato. Però ecco, adesso Allegri sta provando a fare una cosa diversa, anche perché, per carità, vincere basta, però forse dentro il suo cuore Allegri coltiva anche l'ambizione non soltanto di vincere degli scudetti o delle competizioni con la Juve, ma anche di lasciare il suo segno, sì, esattamente come fece Capello nel post-Sacchi. Sai cosa? L'impressione è che i giocatori in questo momento, i giocatori della Juventus, si stiano divertendo, e non lo dico a caso, ma perché mi è stato riferito che da alcuni di essi sono venute queste parole: beh, a Roma ci siamo divertiti. Giorgio, io credo che Allegri stia facendo... No, l'ho notato anch'io, bravo, l'ho notato anch'io questa cosa qua, l'ho notata proprio nella prestazione dell'Olimpico, cioè da quella ferocia spalmata sul campo la Juve ha spremuto divertimento, insomma, quando si difendeva in velocità e trovava quelle soluzioni offensive così rapidi, così semplici, apparentemente semplici, lì c'era del puro divertimento. Però devo dire che a me, più delle trovate spettacolari in attacco, della prestazione dell'Olimpico, a me è colpito la prestazione difensiva di squadra, la capacità di rendere praticamente inoffensivo quell'attacco della Lazio, che fino adesso ci aveva abbastanza impressionato nel secondo attacco del campionato, l'ho messo totalmente in condizione di non nuocere, con una prestazione di squadra davvero davvero davvero impeccabile. Insomma, come ha detto Allegri nel post, puoi avere dietro anche i più grandi specialisti del mondo, ma se tutti non contribuiscono a proteggere il territorio, a sporcare la manovra dell'avversario, la blindatura perfetta non la otterrai mai. E lì tra l'altro ci sono anche delle alternative, come Padoin, che sembrava la terza scelta, no? Lì a sinistra, che magari anche lui si è messo in testa di scardinare le gerarchie. Ecco, in questa nuova Juve ci sono alternative tutte affidabili, insomma, cosa dire di quel Pereira che è impressionante nel movimento tra le linee, le imbucate verticali, il pressing, insomma, considerarlo anche se un'etichetta prestigiosa al 12° uomo diventa quasi complicato adesso. Sì, adesso sì, mentre per la Roma, Giorgio, per chiudere, poi ti salutiamo io e Pardo, è il momento della resistenza, dicevo prima, ridotta ai minimi termini dagli infortuni e le sfighe assortite. Oggi leggevo c'è stato anche un problema con Maicon, che ha rifiutato di dare la sua disponibilità per la trasferta di Moschi. Invece ci hanno detto, vabbè, può farcela a questa infiammazione cronica al ginocchio, ha detto no, non vengo, e c'è stato uno scherzo con Garcia. Ma no, ma lì è un caso probabilmente un po' spinoso da chiarire, perché lui c'ha un'infiammazione cronica al ginocchio, se non ho capito male, sì. Però sembra che non sia in buonissimi rapporti con lo staff medico, quindi insomma una serie di difficoltà da superare. E la Roma in generale è in un momento delicatissimo per i tanti infortunati, parliamo di 14-15, quindi chiaro, quando si procede al giudizio sulla Roma bisogna sempre riflettere su questo. Approcci sbagliati, l'abbiamo visto anche a Bergamo, pronti via Morales in gol, c'è la difesa che fatica, insomma gli esterni in questo momento sono fragilissimi, c'è De Santis in un momento delicato e ci sono giocatori che non decollano come Turbe che non varia il suo gioco, continua a pensare che possa risolvere tutto con lo sprint. E quindi in un momento complicato, però anche in un momento delicato trova nel suo organico giocatori che gli spaccano le partite, tipo Diaz e Nangolana, quindi pensiamo in positivo, dai. Ti faccio salutare da Pardo, che con la promessa che organizzerà un'altra festa. Organizziamo anche una cena molto più, sì, in maniera molto più casta. Molto più... Luigi, no, una domanda. Immagino che gli monumenti siano cresciuti in modo esponenziale, però è possibile, che ti abbia visto su una limousine blu recentemente a Milano? Non è possibile. Non eri tu? Era Ricucci? Dici? Credo fosse Ricucci, purtroppo la somiglianza rimane, cioè purtroppo, carità. Ero convinto fossi tu, ti ho anche fatto dei gesti per richiamare la tua attenzione, va bene. Non era Pardo sulla limousine blu. Ricucci è un splendido uomo, non ho una limousine, quanto agli emolumenti ci stiamo lavorando, ma la situazione è no, ti ringrazio, comunque vediamoci. Va bene, per Luigi, a presto. Ciao Giorgio Borrà, grazie. Ciao. Convocati. Stefano Tacconi per lei. Max, intanto ti devo chiedere scusa del pirla che ti ho dato inizialmente, nel senso di alla Juve quando hanno detto verrà il primo pirla di turno, però tu sei un gran bel pirla, nel senso di sei un grande allenatore, è già un complimento, perché non è facile sostituire Conte, 3 anni di campionato, ridare stimoli, ridare morale, ridare una forza a questa squadra che lo era già, però bastava talmente poco e tu ce l'hai fatta. Devo dire che sei un bel gran pirla, nel senso di sei bravissimo. Il ragionamento di Stefano Tacconi sabato sprint ad Allegri dopo partita di Juventus Lazio non facilissimo da capire. Posso dire, me lo permetti Pierluigi? Non semplicissimo da comprendere. Comunque rimaniamo lì sospesi a questo Pirlo giudizio. Non è una cosa. Pirlo è figo, perché Pirlo è un gran bel giocatore della storia. Pirla di solito è denigratorio, però vabbè. Un giorno ce lo spiegherà. Ma intanto io sto ricevendo diverse invettive da zemaniani, zemanisti cagliaritani, perché ho detto che a me Cagliari Napoli, sinceramente, non è la mia partita preferita. Hai invitato Porra, e quindi voglio dire, per la par condicio, non dovremmo avere problemi. A Torino fanno un mazzo così a Ventura, che ha fatto delle stagioni meravigliose, adesso gli gira male con una squadra che hanno tolto i giocatori migliori eccetera, gli fanno un mazzo così, c'è un punto in più del Cagliari. Il Cagliari è una classifica da Cagliari, Zeman. Cioè... devo dirti questo, che un gol come quello dell'1-0 forse lo prende solo il Cagliari di Zeman, però una partita nella quale sei sotto 2-0 a Napoli dopo mezz'ora la pareggia solo il Cagliari di quella fascia lì, di quella fascia, di quelle squadre lì medio piccole, la pareggia solo il Cagliari, così come vincere 4-1 a San Siro contro l'Inter di quella fascia lì può vincere solo il Cagliari, perché qualsiasi altra squadra piccola che alla mezz'ora del primo tempo è sotto 2-0 a Napoli ha un solo pensiero in testa: come evitare l'imbarcata. Sì. E invece al Cagliari non gliene frega niente, quindi gioca la partita esattamente continuando a pensare di potersela giocare, fregandosene di perderla eventualmente 5-0, e capita che possa pareggiarla e addirittura rischiare di vincere. Poteva perderla, ma poteva addirittura vincerla nel finale. Quindi come sempre, insomma, Zeman è un'interpretazione estrema del gioco, che ha delle cose molto belle, molto positive, molto divertenti. Poi è chiaro, il gol dell'1-0 è assurdo. Sì. Ma volendo anche quello del 3-2, con un cross di Maggio, sì, che parte, sì, che parte però un'ora prima e arriva sulla testa di De Guzman dall'altra parte da solo un'ora però dopo. La quantità di palle gol che ha fatto a Napoli il Cagliari ieri l'hanno fatto in poche. Sì, e pochi. Questo è anche del merito del Napoli, Pier. Sì, è del merito del Napoli, però secondo me è anche merito di una squadra che ci crede e che gioca un calcio di un certo tipo. Ma quindi sono proprio le due facce della stessa medaglia, sì. E alla fine dell'anno ci sarà soltanto un modo per capire se sarà andata bene o se sarà andata male, ed è la classifica. Certo, Cagliari, certo, deve vincere le partite normali sicuramente con le squadre del suo livello, soprattutto quelle in casa. Questa è la cosa importante. Poi se riesce a portare a casa la salvezza e la impreziosisce con 4-5 partite memorabili, certo, no, Cagliari sono, Cagliari sono tutti contenti, così, Cagliari sono tutti contenti, no, Poi adesso ma non solo a Cagliari, in tutta Italia, cioè voglio dire, comunque questo è un elemento di ricchezza per il nostro calcio. Io guarda, su Zeman io non sono d'accordo con tutto quello che fa, secondo me lui ha fallito alcune stagioni, non è che lo devo dire io, è abbastanza evidente. Non considero Zeman un guru. Sì. Detto questo, siccome sono laico, non ho il poster di Zeman in camera. Detto questo, quando sono le sue partite, anche, un'occhiata gliela dai per capire cosa può succedere. È un elemento di ricchezza comunque, no? Cioè, è un elemento comunque di differenza rispetto all'approccio che tanti altri hanno, e quindi secondo me è una cosa interessante da seguire. Sentiamo cosa ha detto Zeman invece su quel gol preso su rimessa laterale. Vabbè, di solito gol così non si prende, ma ho detto già, di solito non ce n'è uno che lancia la palla sulla rimessa laterale a 40 metri, quindi come non me l'aspettavo io, non se l'aspettano i miei giocatori, non se lo aspettano i tifosi. Anche se loro la giocano così quando sono vicino, nel senso che qua in parte dalla linea di fondo, e la giocano lunga lì. Però io come squadra siamo rimasti sorpresi. Mario, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, benvenuti in provincia Granda. Grazie. Allora, Cuneo. Provincia di Cuneo. Allora, senta. Dica. Ieri una grossa delusione. Quale? Per il fatto che come fa un allenatore come Ventura che non si è opposto a Cairo nella vendita di certi immobili. Noi eravamo 30 anni che aspettavamo i gemelli del gol e quando li abbiamo ritrovati li abbiamo venduti. Perché Cairo c'ha il braccio lungo per prendere e il braccino corto per dare. Beh, intanto era andato a prenderli questi due giocatori, intanto li ha valorizzati, ha giocato un campionato splendido, poi probabilmente il Torino, no, per non è neanche la società che può permettersi di trattenere giocatori che hanno quel tipo di mercato. Il problema è il mercato, che detto alla radio di Confindustria fa un certo effetto. Il problema è il modo nel quale è strutturata la Champions League, l'UEFA. È un meccanismo per certi versi inverso a quello dell'NBA, che tu conosci meglio di me, no? Nell'NBA ci sono i Philadelphia 76ers che stanno facendo tanking, si dice in gergo, cioè perdono le partite, qualcuno dice apposta, ma insomma hanno deciso di prendersi una stagione di una stagione perdente per lavorare sul futuro. Più hanno un vantaggio nel comprare la prima scelta dell'anno dopo. Il meccanismo del calcio europeo e mondiale di questi ultimi anni, purtroppo, secondo me, va nell'altra direzione. Cioè, più sei ricco, più fai soldi, più fai la Champions League ti dà altri soldi, e quindi poi alla fine l'equilibrio non c'è. Guarda, se tu dai un'occhiata agli altri campionati europei, io amo il calcio internazionale. Allora, in Francia c'è il Marsiglia più il Paris Saint-Germain, ma scommettete che lo vince il Paris Saint-Germain. In Germania c'è il Bayern che lo vince per decreto, cioè non c'è neanche più il campionato. In Inghilterra c'è il Chelsea che ha più 7. In Spagna, dove si erano illusi di avere un campionato equilibrato, ricomincia la solita storia Real Madrid-Barcellona con Real favorito. E quindi quello che ha fatto Cairo, io capisco la delusione del tifoso, quello che ha fatto Cairo è stato monetizzare una grande stagione per sopravvivere, solido, per garantirsi la stagione successiva. Cioè io non ci trovo niente, sinceramente, no, non ci trovo niente di scandaloso in una politica come di questo tipo. L'Udinese anni fa ha venduto Sanchez prima del preliminare di Champions League. È chiaro che dal punto di vista del tifoso dici: ma che devo fare? Cioè, vado a fare il preliminare della Champions, ho la possibilità di entrare nella storia e mi vado a vendere un giocatore, il giocatore più importante che ho. Però è così, purtroppo il livello è quello lì. Oggi il mercato è drammaticamente segmentato. Beh, ma poi questa è anche la politica del Napoli, volendo, o la politica, certo, che può fare la Fiorentina, che ha cercato fino all'ultimo di vendere il suo giocatore più monetizzabile, no? Quadrado. Quindi è una politica che i club italiani in questo momento devono fare, e io non ci trovo niente di scandaloso in questo, sempre poi trovando, avendo bravi dirigenti, perché questo è il trucco. La Roma ha venduto Sabatini, ha venduto e monetizzato Benatia quest'anno, la Mela, Marchigno, certo. Insomma, questa è la politica che devono fare i nostri club, piaccia o non piaccia. Poi bisogna avere i dirigenti bravi che ti vanno a prendere qualcun altro di livello e di valore. Franco Ordine, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. E adesso te lo dico, non ti preoccupare. Così brutto sto derby. Sono in un aeroporto, quindi capisci che io guarda, di ordine. Più che brutto, devo dire proprio un po' modesto, un po' troppo modesto per le esigenze di Milano e soprattutto per le esigenze di quel pubblico, il tutto esaurito. Insomma, devo dire nettamente, ma quello che fa più impressione è il livello complessivo. Io non ho fatto il calcolo, spero che lo abbiano fatto gli staff dei due rispettivi tecnici che hanno anche monitorato tutti i passaggi, ma secondo me c'è un percentuale di passaggi sbagliati che sarà intorno al 70-75%. Sì, oggi è stato sottolineato un po' da tutti. Poi il centrocampo del Milan, Siena e Muntari ieri sera improponibili. In generale il Milan non ha grandissima qualità a centrocampo, ne ha di più l'Inter, che però è in un momento di ristrutturazione, di ricostruzione. Mi devi spiegare però fino a quando Inzaghi dovrà pagare la tassa Torres. Sì, ma infatti quello è, credo che sia ormai l'argomento iscritto all'ordine del giorno da questo momento in poi, perché non si discute l'impegno dello spagnolo, non si discute il fatto che si sbatta come una mosca dentro un bicchiere, da un lato all'altro, da una parete all'altra, per tentare in qualche modo di procacciarsi qualche pallone. Non gli arrivano grandissimi rifornimenti, l'unico uno contro uno della partita lo ha perso contro Jesus, che non è proprio Thiago Silva. Allora tutto questo deve puntare a, secondo me, una riflessione complessiva che va sotto il nome di giocare in attacco. Non puoi pensare di schierare quattro punte e poi limitarti solo e soltanto al contropiede. Sì. Perché voglio dire, allora non ha molto senso. Convocati. Pardo, sei d'accordo con Franco Ordine? Il Nino ha smesso di essere il Nino ed è diventato una tassa da pagare per Inzaghi già da un pezzo, cioè da qualche anno. Sono d'accordo. Aggiungo che se c'era una speranza, diciamo, dal punto di vista del Milan, era la grande partita, no? L'adrenalina, perché insomma sappiamo che i giocatori un po' in avanti con l'età magari perdono qualcosa dal punto di vista dell'esplosività. Però magari quando c'è una grande partita, quando c'è una grande atmosfera, quando c'è un grande stadio, un tutto esaurito, qualcosa in più, riescono a tirar fuori delle qualità, no, da giocatori superiori. E ieri poteva essere questa occasione, mi pare che non sia stato dato, quindi non lo so, penso che si possa cominciare a pensare a un dopo, cominciare a pensare in maniera più laica a una presenza di Torres, che ci può essere come ci può non essere, ed eventualmente c'era altre idee di squadra. No, ma che poi se vogliamo il falso 9 c'è Menez, mi sembra la soluzione migliore. Poi mi sembra che Menez e il Shaarawy, Franco Ordine con Torres non si trovino esattamente nella condizione migliore. No, giocano meglio senza. Pazzini ammuffisce in panchina, chiede di essere venduto di qua di là, su e giù, e quindi? No, vabbè, è evidente che questo è un problema complessivo che va risolto con un taglio del nonno molto deciso, cioè bisogna fare una scelta. D'altra parte qui in questo momento la squadra è, diciamo, una incompiuta, è come la famosa coperta corta, se ti scopri le spalle ti scopri i piedi e viceversa. Qui deve scegliere tra il falso 9 che dà un po' più di razionalità e meno peso offensivo, ma ieri con 4 punte nel primo tempo ha fatto un solo tiro in porta, un gol, obiettivamente molto poco, e le cose migliori dal punto di vista offensivo le ha fatte nel secondo tempo. Non a caso l'occasione bellissima, sempre ancora in contropiede, Bonaventura Ciante per El Shaarawy, l'ha fatto quando è uscito Torres. Quindi secondo me c'è da prendere una decisione di fondo senza farsi, come dire, illudere dalle chimere di un gioco offensivo. E bisogna in qualche modo, aspettando che ritorni Montolivo, bisogna in qualche modo puntare quel centrocampo dove obiettivamente si vedono i maggiori limiti di questo gruppo. Certo, grazie Franco, buon lavoro. Grazie. Io volevo prima di salutare Pardo e lasciarlo salire sull'aereo per venire a Milano a fare Tiki-Taka di stasera. Sì, io sono già seduto. Sei già seduto, giù il cappello insieme per Toto di Natale. 200 gol in 400 partite, meno 5 da Baggio. Ma sarà sempre per la storia del nostro calcio, e non so perché, comunque il figlio di un dio minore, Toto. Beh, perché è semplicissimo, perché ha giocato a Empoli e a Udine. Questa roba qui, signori, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma insomma, questo è un mondo, come tornavo al discorso di prima, è un mondo dominato dal mercato. È un mondo dominato quindi nel calcio da quella cosa terribile che sono i bacini, terribile ma necessaria, che sono i bacini utenza. Insomma, se noi facessimo dei programmi nazionali parlando per i primi 25 minuti di Udinese piuttosto che di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma, probabilmente andremo in difficoltà sugli ascolti, ma non soltanto io, tutti la domenica sportiva, cioè fa parte della normalità. E quindi è chiaro che Di Natale ha scelto. Sì, poi ha scelto nel 2010 di dire no alla Juventus, dove avrebbe potuto vincere qualcosa. Sì. Come sempre della vita, rimane però, e questo deve essere sottolineato mille volte con la penna rossa e con l'evidenziatore, rimane un giocatore straordinario. Questi 200 gol sentivo l'altro giorno. Tutto il calcio minuto per minuto, non mi ricordo chi facesse la telecronaca che subito ha detto 200esimo gol, ancora più importante va sottolineato che li ha segnati con Empoli e Udinese, con due squadre comunque, insomma, che non è che hanno sempre avuto la loro storia, soprattutto l'Empoli, ma poi la carriera sarà soprattutto l'Udinese, 27 palle gol a partita. Quindi questo, se vogliamo, da un certo punto di vista è un'ulteriore medaglia sulla carriera di Natale. Poi per il resto, insomma, da qui a pensare, è chiaro, se l'aveste fatti 200 gol un giocatore della Juve del Milan, forse dovrebbero stare più clip, però insomma è così, non so dirvi ancora oggi, arrivare a 40 anni con un grande senso di pennica dentro di me, se sia giusto, se sia sbagliato, se sia un discorso democratico il fatto che si parli di più nel bene e nel male delle grandi squadre, o se sia un fatto profondamente ingiusto. Lascio la domanda aperta, giusto, ingiusto, un tema filosofico di questo lunedì dello sport, fino alla zanzara, fino alla morte, il signor Parenzo che ne pensa. E sarebbe interessante sapere cosa ne pensa. Probabilmente niente. Ciao Pier. No, sarebbe interessante. A parte tutto. Ciao. Non ti sento più. Mi senti. No? Più o meno. So che sei in aereo, ti sento più o meno. Ti saluto e ci sentiamo domani. Naturalmente, anzi, domani ci vediamo perché abbiamo un appuntamento particolare fuori di qui con il nostro programma. Poi vi dico anche dove. Pinzi va al centro da Guilherme, poi Di Natale! 200! Totò Di Natale! 200 volte in Serie A, la partita numero 400! Certificata, una media pazzesca per un giocatore semplicemente straordinario! No, dispiace perché era difficile oggi contro un Chievo, molto messo in bene in campo. Siamo riusciti ad andare a vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo, però poi allora hanno dato un grandissimo gol. secondo me è un buon pareggio quando guarda una squadra così difficile. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di tutti i 10-15 anni che gioco insieme con tanti ragazzi, tanti allenatori, tante quelle persone che mi sono state vicine, mia moglie, i miei figli e anche i miei genitori che da su mi guardano. Questa è la Totò di Natale. Paolo da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi riconvocato, ma una domanda, volevo fare due domande, ma una me l'avete già quasi risposto. Qual era? Comunque, il primo è, secondo Inzaghi non è stato tardivo nel cambiare Poli con uno dei due centrocampisti che adesso mi sfugge il nome. Montari e Sien, esatto. La seconda era con l'arrivo, speriamo presto, di Montolivo, se Inzaghi come voleva giocare, se giocava col falso 9 o con un centravanti che c'è ma non c'è. Aspetto la risposta per radio, vorrei fare i complimenti. No, ce n'è anche un altro di centravanti, volevo dire. Sì, lo so, ce n'è anche un altro, ma evidentemente non lo vede o si vede che non lo so. E volevo fare i complimenti a voi, a lei a Pardo, e complimenti alla pallacanestro reggiana per quello che sta dando ai tifosi di Reggio Emilia. Ascolta la risposta per radio. Grazie Paolo, grazie a lei. Fa benissimo fare i complimenti, non tanto a Pardo quanto alla pallacanestro reggiana che ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, sta impreziosendo questa stagione sportiva italiana, perché da quanto tempo non vedevamo una squadra di basket italiano al massimo livello con un quintetto base fatto da, come piace a tutti quanti, da giovani giocatori italiani, 4/5 del quintetto base e tra l'altro primato in classifica. Ci fermiamo per Bet Corner. Quanto a centravanti, volevo appunto sottolineare che falso 9, non falso 9, Montolivo che rientra, il Milan ne ha un bisogno disperato della qualità che può dare Montolivo, che non ha una replica in quel centrocampo. Aggiungerei però che e questo lo sappiamo tutti, Bonaventura è un grande acquisto, ieri sera il migliore del Milan a mio parere, probabilmente il migliore in campo. Quanto al centravanti, il Milan avrebbe anche un altro, cioè non c'è solo Fernando Torres ma Pazzini, uno che i gol li ha sempre fatti e che non viene preso in considerazione da Inzaghi, questo mi sembra evidente. Bet Corner, GR, poi di nuovo qui. Quote e pronostici. Il match tra Genoa e Palermo chiude la 12ª giornata di Serie A con i rossoblù che vincendo sarebbero terzi. Vediamo dunque assieme le quote SDAI per questa partita che comincia alle ore 20:45. L'1, la vittoria del Genoa, è quotata 2:15, l'X è a 3:20, il 2 invece, con la vittoria del rosanero in casa della Genoa, è quotato 3:50, gol a 1:92, no gol, quotato 1:78. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore di questo match. Nel Genoa spicca il nome di Matri, quotato 5, Piniglia 7, Kučka invece è quotato 10. Nella Palermo interessante la quota di Dybala, quotato 7, Belotti e Vasquez sono quotati 10. Monday Night, d'altra classifica in Premier League, con l'Aston Villa che sfida il Southampton, secondo della classe, gara che inizia alle ore 21. 1, la vittoria dell'Aston Villa è quotata 4:75, l'X è a 3:65, il 2 invece con la vittoria della Southampton è quotata 1:73. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. I semafori si accendono, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio di Abu Dhabi che scatta adesso con Rosberg che cerca di tenere una posizione, ma è partito come una furia, come una fionda, Lewis Hamilton a prendersi la prima posizione, arriva lì all'esterno la Williams con Bottas all'attacco, con Massa rimasto un po' nel traffico, Bottas invece lì dietro con Massa che riesce a stare incollato alle due Mercedes, ma Hamilton è riuscito subito a fare quello che sperava, prendersi la strada davanti e scappare via. Eccolo Mark, Hamilton ha passato Rosberg, dicevamo potrebbe essere gentiluomo ma non può esserlo perché dietro ovviamente Felipe Massa sta arrivando. ancora due curve lo separano, destra, destra dalla bandiera a scacchi, e Lewis Hamilton sta per aggiudicarsi, lo farà tra pochissimo, tra pochi secondi, il secondo titolo mondiale della sua carriera. Lewis Hamilton è campione del mondo per la seconda volta, come Alberto Ascari, come Gene Clark, come Graham Hill, come Emerson Fittipaldi, come Mika Häkkinen e come Fernando Alonso. Lewis, thank you very, very much for not letting or making the British public sweat. You are an absolute legend. Well done, mate. Allora, sono tre giorni che tutti gli ascoltatori di tutti i convocati chiedono Leo Turrini. Buongiorno, come andiamo? Anzi, buon pomeriggio. Io non ce la faccio più. Abbiamo Twitter che sta esplodendo, abbiamo messaggi, ti lascio immaginare. Tutti vogliono Leo Turrini, tutti. Adesso sei troppo buono. No, mica io, cioè ci sono però, testimoni. No, vorrei dire una cosa subito, perché la rubrica del traffico non era completa. Se siete in coda tra Vero e Cormano, sappiate che c'è una Panda in panne, e chi la sta guidando? Marco Mattiacci. Marco Mattiacci, no, che fino a poche ore fa era il capo supremo del reparto corse della Ferrari, ma è stato ghigliottinato dalla mannaia di Sergio Marchionne, e l'annuncio è stato ufficializzato appunto mentre Mattiacci si trovava sulla Pero Cormano al volante di una Panda. C'è un nuovo capo, ennesimo alla Ferrari Gran Premio, che è Maurizio Arrivabene. Quindi io invito tutti i ferraristi a un minuto di raccoglimento e anche ad afferrare il senso profondo di questo 2014 infernale. Non so se il maestro Genta mi lascia tempo per dirlo. Leo, puoi dire quello che vuoi. C'è il traffico? C'è il traffico? No, non c'è il traffico, vai tranquillo, il traffico non c'è, alle 15:15 non c'è il traffico. Allora volevo dire, cosa hanno in comune il programma di Radio 24 Focus Economia del bravissimo Barisoni e la Ferrari di Formula 1? Ve lo dico io. Dimmi. Da anni mai una buona notizia. A Focus Economia sentite solo dire cala la produzione, aumenta la cassa integrazione, eccetera. Dalla Ferrari vi dicono solo ghigliottinato questo, eliminato quell'altro. Per la prima volta dopo 20 anni la Ferrari non ha vinto nemmeno un gran premio. Non accadeva dal remotissimo 1993. E in questi mesi non ci siamo negati nulla. Sai cosa mi diceva Franco Piantanella in interfono? Che alla Ferrari hanno la zamparinite. Beh sì, ci stiamo un po' convertendo a queste logiche calcistiche. Infatti volevo fare notare questo all'amico Pardo, no? Il tuo sodale, insomma, che sì, culo e camicia, pappe, ciccia, cocchio e renato. Allora, ad aprile è stato liquidato Stefano Domenicali perché si è detto che serviva il nuovo, l'innovazione. È uno. Dopodiché, di lì a poco, è stato giubilato il capo dei motoristi Luca Marmorini perché avevamo la necessità di investire sul futuro, eccetera. Poi la ghigliottina è stata messa in funzione per Luigi XVI, il povero Montezemolo, che è rimasto con una multipla metano ed è stato giustiziato in una maniera che persino Barisoni a Focus Economia, secondo me, potrebbe trovare inelegante, no? E siamo a tre. Poi il top driver Fernando Alonso, che salutiamo con affetto e gratitudine perché per 5 anni ha reso molto più di quello che valesse la macchina che aveva sotto il sedere, anche lui out. E chi mangiava l'appello, quello che adesso è fermo sulla Pero Cormano? Mattiacci, che era venuto per cambiare tutto e tutti, e hanno cambiato lui. Quindi vedete la rivoluzione francese, no? Robespierre che a sua volta finisce ghigliottinato. Sì. La domanda è: quando torneremo a vincere un gran premio? Lo so, gente, che mi vuoi chiedere questo, e io ti rispondo mai. Non nel 2015. Non nel 2015, neanche un gran premio. No chance. Se poi viene giù qualcosa tipo il gol di Obi nel derby, a parte il fatto che l'ufficio indagine della Federcalcio e la procura di Cremona, procura della Repubblica di Cremona, sono in contatto con Leo Turrini, questo ve lo do per certo da ieri sera tardi, hanno telefonato anche a me per la verità. Io mi ero limitato a indovinare il risultato del derby. Ieri pomeriggio ore 18 Sky Sport, Leo Turrini dichiara il derby finisce 1-1 e segna Obi. Chiaramente era una partita truccata, tu lo sapevi già, e finirai insieme a Signori, al suo commercialista, eccetera, eccetera, nel Gran Calderone. Quello là che giocava a tennis, che dicono che vendeva. No, non lo so. Io posso dire che è vero che ho fatto questa profezia, sì, ma più che altro perché veramente ormai, io lo dico con dispiacere perché tu sai che sono interista dichiarato. Lo so. Ma a livello tecnico Milan-Inter di ieri sera sembrava Ternana, Cuoio, Pelli. Ma non sono d'accordo, Leo Turrini, non sono d'accordo. Ma lo so, gente, che tu sei milanista. Ma no, ma non sono nulla, ma non sono, non mi è dispiaciuta tanto quella partita, non sono così disfattista. Ma dai, gente, su, sì, sereno, dai. Ma sono sereno, ma posso dire che a me non è... Mattiacci, come Mazzarri, Mattiacci aveva detto il meglio deve ancora venire, esattamente venerdì, no? E come l'autobiografia di Mazzarri, via, finito, chiuso, liquidato. Insomma, qui, cari amici di Radio 24 e seguaci di Genta, stanno accadendo cose che voi umani, compreso il gol di Obi, è veramente... Sì. Cioè, siamo proprio al di là dell'immaginabile, caro gente. Ma senti, ma spiegami che cosa succede adesso alla Ferrari. Allora, arriva bene insomma, Mattiacci è stato giubilato grosso modo perché era l'ultima scelta di Montezemolo. Non vedo moltissime altre ragioni, no? Allora, io credo, adesso naturalmente come sempre verranno fuori chissà quali interpretazioni, ma io penso che sia molto difficile giudicare l'operato di un manager lasciandogli solo 7 mesi in una situazione così delicata come era quella che Mattiacci ha trovato, perché la Ferrari lo sapevamo come aveva cominciato la stagione, cioè malissimo. Ritengo che qui ci sia un po' la perfidia sabauda, no? Mm-hmm. Allora Torino, Detroit, Marchionne, Andrea Agnelli, che poi ti spiegherò, è Lord protettore del mio amico Arriva Bene, sì, vedevano sicuramente in Mattiacci l'ultima scelta, l'ultima nomina fatta dall'avvocato Montezemolo, il quale adesso l'ha confinato sulla Piero Corbano con una multipla metano che non va, ma comunque Mattiacci era un uomo di Montezemolo. Io un'altra chiave di lettura faccio fatica a darla. Ci potrebbe essere anche, lo dico da ferrarista, la speranza della teoria del bicchiere mezzo pieno. Mm-hmm. Maurizio Arriva Bene, contrariamente a Mattiacci, è da 25 anni che sempre ai box, ai paddock, nei garage, perché per la sua attività professionale proprio viveva di automobilismo e di Formula 1. Quindi, contrariamente a Mattiacci, ha una grandissima conoscenza e competenza del ramo del settore. In più, il giovanissimo Andrea Agnelli era un dipendente di Arriva Bene, alla Philip Morris. Quindi questo fa pensare che adesso Arriva Bene, che anche nel board della Juve, diventi il capo della Ferrari che corre, perché c'è una volontà fortissima dell'azionista Fiat Chrysler, Automotive, Torino, Detroit, Andrea Agnelli, di restituire la Ferrari allo smalto, al prestigio che la tradizione raccomanda e tutto il resto. Se così va benissimo, cioè, per dirla chiaramente, Andrea Agnelli potrebbe diventare il prossimo presidente della Ferrari. Io ho notizie contrarie. No, allora adesso io qui siamo sempre sul terreno delle congetture e delle supposizioni. Agnelli fa il presidente della Juve, quindi suppongo che in teoria ne abbia abbastanza, pensando anche alla difficilissima, avventurosa partita col Malmo, è vero. Però è fuori discussione che Maurizio Arriva Bene è legatissimo ad Andrea, l'ho detto prima, nel board della Juve, quindi voglio dire, ma va bene questo, nel senso che se l'azionista di Ferrari, invece di occuparsi solo della quotazione in borsa della Ferrari medesima e del dividendo straordinario, eccetera, ha capito che per essere competitivo in Formula 1 di fronte a un colosso come Mercedes devi investire in ricerca tecnologica e in risorse umane, cioè in grandi ingegneri e tutto il resto, perfetto. A me Arriva Bene, ha detto, anzi chiamiamolo all'inglese, ma perché Detroit casa, arrive well, mi ha detto che lui viene esattamente con questo mandato. cioè con la consapevolezza che bisogna attraversare il deserto, ma che non verrà lesinato nessuno sforzo per riportare la Ferrari là dove vogliamo stia. Quindi arriva lui con il denaro da investire. Eh? Però a questo punto citiamo, caro Genta, due grandissimi esperti di Formula 1, che erano il mio amico Mogol e Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Sì. Perché voglio dire, come ti insegna Barisoni, quando questi qui dicono metteremo i soldi, investiremo, faremo, poi tu devi sempre andare a verificare. Quindi speriamo che sia così. Di certo abbiamo Vettel e Raikkonen. Allora Maranello hanno fatto fuori tutti gli ultimi, tranne uno. Lusciere, chi è Lusciere? Adesso tu mi chiedi, bravo gente, io con te mi trovo perfettamente, perché tu hai il senso comico, sei perfetto. No, chi è Lusciere? Lusciere, Kimi Raikkonen, che quest'anno ha guidato come un portinaio, capito? Ed è l'unico che si è salvato passando inosservato da questa mattanza. Però lasciami anche dire complimenti a Lewis Hamilton. Beh, questo appunto, per fortuna il dio dello sport ha guardato giù e ha detto non può vincere il mondiale uno con il Fil Rouge a causa dei petrodollari. E quindi gli ha messo la benzina, il sale, lo zucchero nel serbatoio e questo si è incartato subito. Io sono contento anche perché ti devo dire che ho sempre avuto, mi pare che è capitato di parlarne con te, una grande stima per le qualità di pilota di Hamilton. Lui aveva vinto giovanissimo il titolo nel 2008, poi aveva dato l'impressione di essersi un po' perso. Sai, anche questa Nicolette Schwarzinger che c'è sempre dietro, anche ieri, insomma, diciamo che Hamilton ha uno stile di vita un po' alla Balotelli, fuori dagli autodromi. Non so se avete memoria, una volta in Australia gli ritirarono la patente perché fuori dalla pista si era messo a fare i burnout con una Mercedes di serie. No? Ma questo un po' a tutti, dai. Non sono mica tutti come Raikkonen, dai. No, un po' come Obi ieri sera, voglio dire, no, un mattocchio, farò le capriole, però. Però è un gran pilota e tra l'altro è significativo un particolare, solo Niki Lauda, e parliamo di una leggenda, è stato capace di vincere un mondiale con un lasso di tempo più lungo tra il titolo precedente e quello appena conquistato. Lauda 7 anni, 77-84, Hamilton 6. Questo mi dà grandi speranze, te lo voglio dire, per l'uscire di Maranello, Kimi Raikkonen, che sono 7 anni che non vince il mondiale, e può essere anche incoraggiante per l'anno prossimo. Non lo vince sicuro? No, Alonso però non lo vince addirittura dal 2006, quindi insomma finché c'è vita c'è speranza. Grazie Leo Turrini. Guarda che io dopodomani sono lì con te. Guarda, io volevo annunciarlo, allora possiamo dire ufficialmente dopodomani sarai qui con me per 2 ore, per tutti i convocati. Manda l'indirizzo che non mi perdo con la metropolitana, perché ormai sono anziano. Ti vengo a prendere io. Ma ogni promessa e debito vengo. Dunque, dopodomani aspettami, ti vengo a prendere io con la multipla metano. No, fatti trovare pronto. La Montezemolo e la Panda di Mattiacci sulla, come si chiama lì, la strada di Rho. Fate molta attenzione, abbiate pazienza, perché insomma è Ferrari, è andata così, amici italiani, è andata così. E andrà così anche l'anno prossimo. State sereni. Sicuro. Grazie Leo, ti aspetto qui, ti aspetto qui dopo domani. Benissimo, ciao Carlo. Ciao Leo. Parte veloce Tevez, centralmente si propongono Pereira e Pogba, il pallone per Pogba, il controllo di Pogba, al limite, parte il tiro, rete, Pogba, Juventus in vantaggio. Leo Guizzo di Marchisio, 3 contro 2, contrattacco della Juve, Marchisio, l'apertura per Tevez, al limite, Tevez, parte il tiro, rete, Carlitos Tevez, il raddoppio della Juve. Palla tra le linee, Pereira, ancora per Pogba, in area di rigore, Pogba! Terzo gol della Juve, show di Pogba, doppietta per lui, Juventus strepitosa all'Olimpico. Non credo ci fosse modo migliore per avvicinarsi alla partita più importante della stagione, che è dietro l'angolo, sarà quella di Malmo, partita che Juventus deve assolutamente vincere, se no anche questo strapotere in campionato rischia di attraversare l'incrocio del fallimento, cosa che accadrà se la Juventus non si dovesse qualificare nel suo girone di Champions League, e su questo non ci piove. Sono altrettanto convinto del fatto che Allegri stia facendo la migliore stagione della sua carriera, si sta definitivamente consacrando, poi anche qui vediamo come va la Champions, eccetera eccetera eccetera, però per come sta gestendo questa Juventus e questa stagione si sta definitivamente consacrando come grandissimo allenatore, almeno sul fronte italiano. arriva alla partita chiave, che è quella di Svezia, con la squadra che in migliori condizioni non poteva essere. Fabio Brescia, buongiorno. Sì, ciao Carlo. Ciao, ciao. Grazie per la convocazione. Sono aperto a convocazione, la prossima volta parto di titolare. Vai, titolare fisso. Che maglia, che numero vuoi di maglia? Vuoi il 45, visto che sei di Brescia? Sei Franco Baresi. Ah, sei Franco Baresi, va benissimo. E magari tu? Ci fosse ancora. Ascolta, ma prima te e Pierluigi dicevate che le squadre italiane devono fare il contrario, chiaramente, dall'NBA. Ma scusami, ma il Milan, a me sembra che stia facendo come l'NBA, perché purtroppo siamo a 17 punti, 14 punti dalla Juventus, praticamente un campionato anomalo, cioè anonimo, cioè, a quel punto qua mi domando, cioè, le due squadre milanesi a metterle insieme non fanno o la Roma o la Juve. Ma secondo te la società Milan cos'ha intenzione di fare per il futuro? Cioè, non investendo, chiaramente vengono a mancare gli introiti, cioè, dico, non lo so, io... Ma questo è evidente, non è chiaro come il Milan voglia costruirsi il futuro. È chiaro che il Milan, almeno a parole, si vorrebbe costruire uno stadio nuovo, quindi vorrebbe dotarsi di infrastrutture più che di strutture calcistiche, di comprare i giocatori, eccetera. Ma è altrettanto evidente che il discorso lo vedo lungo e complicato. Intanto si è costruito, spendendo molti soldi, una bellissima sede. Però la sede non fa punti in classifica, e al momento il Milan è una squadra che non si può nemmeno dire sia in costruzione. Un po' diverso, mi sembra, dalle linee quantomeno un po' più chiare, è il progetto dell'Inter. È evidente che con questa gestione ci vorranno parecchi anni, però almeno mi sembra che uno straccio di linea guida sia stata tracciata. Per quanto riguarda il Milan, è grosso modo un tirare a campare in questo momento tra un Torres e l'altro. Mauro da Padova, buongiorno. Buongiorno gente, buongiorno. E volevo ritornare un attimo, non vorrei unirmi al coro di critiche su Napoli-Cagliari. Io ho giocato a pallone per molti anni, a buoni di discreti livelli, e attualmente faccio il dirigente di una società che ha 150 ragazzini che vanno dal 2002 al 2008. Io credo che il valore del calcio, è retorica allo stato puro, però da una persona colta e raffinata come lei, io non mi aspetto che lei non condivida Napoli-Cagliari, ma che dentro quella partita, per me, vedere Zeman a due minuti dalla fine chiamare fuori Barbo per dirgli che hai qualcosa alle scarpe e sorridere in un momento come quello, credo che sia anche questa la funzione di chi fa sport, a qualunque livello. Quindi viva Zeman, sempre comunque. No, non ho affermato questo, ma questo non esclude quello di dire preferisco da interista Milan-Inter di ieri sera. Beh, ma sai, è questione di gusti, cioè a me nel calcio piace anche l'organizzazione, mi piace anche capire come si evitano gli errori, come si fermano gli avversari, come ci possano essere delle situazioni anche di attenzione tattica. Mi piace anche vedere queste cose nel calcio. Sinceramente, a me in Serie A vedere un gol preso su rimessa laterale, poi l'allenatore che dice ma tanto non sapevamo mica che questo tirava la rimessa laterale così lunga e quindi abbiamo preso il gol, cioè può essere divertente, può essere naif, a me come concetto non fa impazzire, dico soltanto questo, ma ripeto, è serenamente questione di gusti, serenamente. Tutti convocati. Bruce è un coraggioso scienziato che è stato contaminato e purtroppo quando è arrabbiato ragiona più, si trasforma in una bestia furiosa, Hulk che scaraventa ogni cosa, butta tutto giù, non ci riflette proprio su. Momento chiave della partita, Gianmarco Pozzecco al secondo fallo tecnico ed espulso da questa partita, non contento della chiamata arbitrale, e adesso occhio perché forse rischia di peggiorare, ammesso che sia possibile, ancora di più la sua condizione. Più mostra i muscoli, che colpi dà, gli Franco esce arrabbiatissimo e vuole incitare Masnago. Andiamo in diretta con Pozzecco che davanti alla panchina di Milano si strappa la camicia. Gianmarco Pozzecco si strappa la camicia. Stiamo vedendo di tutto in questo derby. La rifarei, c'è un limite a... La rifarei, fa parte del mio modo di vedere la cosa, non parto dal presupposto che sia giusto in assoluto, ecco, cioè nel senso la mia non è la voce della verità, lo rifarei, l'ho fatto, mi dispiace perché non è sportivamente, politicamente corretto, però ci sta, mi dispiace per quelli che hanno fatto il vestito, ho strappato la camicia, provo a vedere un altro, se ne strappano un altro vi chiedo la camicia in prestito. Ho visto anche questo in questa strana, bizzarra, divertente domenica di novembre, derby lombardo Varese Milano, straclassica della nostra pallacanestro, vince Milano 105-97, ma Gianmarco Pozzecco se ne inventa un'altra e dopo 18 minuti e 23 secondi di gioco, quindi ancora nel primo tempo, punteggio 34-28, reagisce ad una chiamata arbitrale prendendosi secondo tecnico espulsione ed esce dal campo strappandosi, come avete sentito, la sua camicia candida. Ma che c'è una sfiga, ragazzi, lei fa paura, cioè porca di quella puttana, perché siamo sfigati, ma sfigati proprio, cioè oculatamente, cioè proprio in modo anche veramente minuzioso, cioè che magari uno superficialmente non ci fa neanche caso. Sì, che poi va detto che una squadra che ha vinto le prime due e poi è in striscia negativa da 5 partite, insomma, se l'è giocata fino in fondo con Milano senza un giocatore fondamentale come Kangur, ha subito una prestazione devastante, la prima da quando in Italia di Marshon Brooks, fin qui grosso modo oggetto misterioso, il grande talento di Milano che era segnato 37 punti con 40 di valutazione, partita stellare da altri... Da altro pianeta, però mi domando, fosse rimasto in campo l'allenatore, Varese magari già scosso emotivamente, forse ne avrebbe, diciamo così, tratto giovamento. Claudio da Parma, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì. Io in realtà più che di pallacanestro volevo ritornare... Schema libero, poi noi lanciamo tante suggestioni, facciamo un gran casino, poi ognuno di voi parla di quello che vuole, non c'è dubbio. Allora, io volevo fare un esercizio di fantacalcio riguardante Di Natale e sentire il vostro parere di esperti del settore, perché la mia impressione da ignorante del calcio è che Di Natale ha fatto il numero di gol che ha fatto perché ha sempre giocato in una piccola. E la mia paura è che con quel fisico, con quella tipologia di gioco, con quelle leve, secondo me in una Inter, benché murignesca, in una Juventus o in una squadra di top di gamma, non so se avrebbe fatto tutti quei gol, perché lì a Udine allora, gioca per lui, obiettivamente. Sì, questo è vero, infatti questa considerazione secondo me è corretta, cioè è chiaro che Di Natale a Udine è la chiesa al centro del villaggio, per dirla alla Garcia, quindi è il giocatore fulcro, il giocatore che mai in discussione, è il giocatore su cui arriva ogni pallone, è il finalizzatore, poi è chiaro che lui è straordinario perché quando uno sa fare i gol li sa fare, non è che se gioca a Udine o a Empoli o alla Juventus disimpara a fare gol, è chiaro che la concorrenza in un top club è diversa e dunque non sarebbe stato alla Juventus, all'Inter, al Milan o dove vi pare, o al Barcellona o al Real Madrid, indiscutibilmente al centro del villaggio. Detto questo, 200 gol sono un traguardo straordinario a qualunque latitudine, direi. Fabrizio, provincia di Livorno, buongiorno. Fabrizio da Livorno, non dalla provincia. Da Livorno, Baracchina, Baracchina Rossa. Dica. Bravo, perfetto. Intanto grazie per la convocazione. A lei. Volevo tornare un attimo sul derby di ieri. E non ho capito sinceramente come mai non si è dato un minimo di giudizio positivo su Mancini per quanto riguarda il fatto che però in 5-6 allenamenti ha messo in piedi un qualcosa di almeno decente rispetto a quello che vedevamo con Mazzarri, che era veramente improponibile. Non perché poi l'Inter ieri dovesse vincere per forza, però secondo me il risultato, per come ha giocato la squadra, meritava un mezzo voto in più, è una mia opinione. Ma Fabrizio, non lo so, io, secondo me voi tifosi dell'Inter siete un po' condizionati. Prima sentivo un dibattito, ve lo dico, un dialogo tra Matteo Caccia, che tra poco arriva, e Andro Mercù, la nostra straordinaria voce delle imitazioni, tutte e due interisti, e si dicevano: ma finalmente uno bello in panchina, lo vedi lì bello, elegante, siamo tutti sollevati, Mazzarri non se ne poteva più, è un'angoscia. Secondo me siete un po' tutti condizionati da questo fatto. Mancini ha ridisegnato l'Inter su probabilmente anche su basi più logiche. Tutti questi grandi cambiamenti io ieri non li ho visti. Se Mazzarri avesse messo adesso vi faccio sentire anche Moratti, che ha parlato oggi sotto la sede della Saras, come ai vecchi tempi. Se Mazzarri avesse messo Palacio a fare il terzino, Kovacic a fare l'esterno di centrocampo, lo avrebbero fischiato, ma neanche dopo 30 secondi, prima ancora di entrare in campo, a parte che succedeva lo stesso perché ormai il clima era quello. Però è chiaro che Mancini si è potuto permettere anche delle mosse, oltre ad aver ridisegnato l'Inter, delle mosse che il suo predecessore non si sarebbe mai potuto permettere, specie in un derby, perché è chiaro che ieri Palacio, l'avete visto, ha fatto terzino su, coprendo De Sciglio e andando avanti e indietro. Quindi e De Sciarawi e Kovacic non è stato esattamente messo a fare il trequartista. Detto questo, Mancini ha un credito che Mazzarri non aveva più. Non mi ha convinto l'Inter fino in fondo ieri, ma non poteva neanche farlo, perché qui Mancini ha ragione, ho lavorato 5 giorni, che volete da me. Un Inter con i 4 in linea, quindi con solo i 2 difensori centrali e quegli altri 2 che fanno Nagatomo e Dodò, che fanno i terzini veri, mi sembra un Inter più logica, mi sembra un disegno più logico rispetto a quello di Mazzarri. Questo sì, da lì a dire che è stata una grande Inter, ma non ancora quantomeno. Armando, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domandina sul derby, sempre a proposito. Senta, ma ha sentito cosa ha detto Tavecchio al Messaggero, intervista pubblicata sabato? No, non l'ho visto. No. Allora, ha detto che gli è stato chiesto, ma in Italia insomma c'è il problema degli stadi e così via. Risposta del presidente federale: non servono stadi nuovi in Italia, bisogna ristrutturare quelli che ci sono, non costruirne di nuovi, anche perché i nostri club non possono permettersi operazioni da 500-600 milioni di euro. Signore, quello della Juventus è costato intorno ai 150 milioni. È chiaro che insomma, ormai qualche anno fa, che la Juventus a Torino può muoversi in maniera diversa rispetto ad altri club in altri posti, però sentir dire un presidente federale in Italia non servono stadi nuovi, proviamo a ristrutturare quelli che abbiamo, che sono stadi vecchi di 80-90 anni, beh, a me ha fatto un po'... fatto venire un po' i brividi, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Armando, dica. Fa sorridere i polli questa domanda qua con Tavecchio, perché se non vogliono tirare su l'Italia è un conto, vogliono forse, ma se vogliono far lavorare la gente, è l'occasione giusta per far lavorare la gente, fargli stadi nuovi, dare occupazione alla gente, dare ossigeno anche al nostro calcio. Sì, ma poi ormai nel calcio, ma Armando, ecco, nel calcio di questi tempi, nel calcio del 2014, insomma, non è che all'estero abbiano delle politiche diverse, sanno benissimo che nel calcio di oggi quella è un'importante base da cui partire, e la strada che la Juventus sta percorrendo lo dimostra. Se non ci sono gli sponsor, purtroppo non se ne può fare niente. Comunque, io volevo fare una domanda sul derby, sì, se me lo consente. Beh, certo, cortesemente. Io volevo. Allora, Inzaghi si trova in una difficoltà tra l'incudine e il martello, secondo mio modesto parere. Berlusconi, perché lecca un po' il sedere a Berlusconi a Gagliani e non vuole scontentarli. Secondo, c'è Pazzini che smania di giocare, cosa ce l'hanno lì a fare? C'è la Pazzini, lo devo regalare alla Sampdoria o devo regalare a qualcun altro, lo regalano dopo, ma se fanno sfruttare anziché fa giocare Torres, quei soldi lì non potevano comprare Chiedira o qualche eccetto Modric o qualcuno di centrocampo che abbia i cosiddetti. Ma per quei soldi lì Modric, con quei soldi lì Modric non te lo fanno neanche vedere, ma a parte questo, Torres era è la figurina, l'unica figurina che, di prestigio internazionale, sebbene un po' consumato, che il Milan è riuscito ad attaccare sull'album quest'anno. Di conseguenza non è una questione di leccare o non leccare, perché più o meno come al Milan il dialogo tra il presidente e l'allenatore di turno è sempre molto fitto. Detto questo, rendiamoci conto del fatto che Torres appunto è l'unica figurina che il Milan ha da spendere quest'anno, e quindi ad Inzaghi verrà chiesto gentilmente di farlo giocare. Quanto a Pazzini non ho niente da aggiungere, perché lei ha ragione, cioè un giocatore come Pazzini, se voglio giocare con un centravanti, quantomeno in un mondo normale lo metto in ballottaggio con Torres, che in questo momento è poco più di un gatto di marmo. Tutti convocati. Proprio che con un pareggio è già un buon esordio, non derby, che è una partita difficile, emotivamente difficile, insomma. E poi la prima volta che avevo in mano la squadra, insomma, siamo una settimana soltanto, devo dire bravo. Beh, mi sembra che fosse anche necessario per i tipi di giocatori e per il tipo di modulo che lui è, e può portare benefici se vince, sì, vedremo. Questo Massimo Moratti questa mattina sotto gli uffici della Saras, come dicevo, come ai vecchi tempi dell'interismo a tutto tondo. È chiaro che difende Mancini, che è il ritorno di Mancini, che è un po' in parte una sua creatura, almeno si dice. Mi faceva giustamente notare Franco Piantanida che, a proposito del discorso stadi, il Bayern Monaco, penso si possa mettere in discussione il modello gestionale del Bayern Monaco, uno dei due club più forti del mondo, l'altro è Real Madrid, un club in grado di produrre denaro e grandi squadre, che ha una casa, ovviamente da anni, l'Allianz Arena, costata 346 milioni di euro, non 600 come dice Tavecchio, ed è l'Allianz Arena, non è uno stadio di provincia per struttura, dimensioni, indotto eccetera. Ebbene, il Bayern di Monaco ha estinto il mutuo 16 anni prima della scadenza fisiologica, quindi hanno detto va bene, abbiamo ancora 16 anni di mutuo, invece di pagarlo, sapete cosa facciamo? Abbiamo i soldi, estinguiamo il mutuo e da adesso tutto quello che entra è roba nostra. Simone Lodi, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo parlare di magistrare un po' secco. Io ho un bambino di 10 anni che gioca nella categoria esordiente del campionato competitivo su Milano. E alla prima partita che ho visto genitori agitati, allenatori agitati, dirigenti agitati, insomma tutti agitati e nervosi. Per cui inviterei Pozzecco a magari fare su YouTube un video sul quale, oltre a scusarsi con la farsa, magari anche a scusarsi con tutti i bambini che magari guardano le partite, hanno lui come esempio o cattivo esempio. Cosa ne pensa? Ma ne penso che gli sportivi devono essere esempio per i nostri figli fino a un certo punto, molto relativo, molto relativo. Cioè, è vero, se si comportano bene è meglio, se non vanno sopra le righe è meglio, se non dicono parolacce è molto meglio, se hanno comportamenti di maggiore sobrietà è meglio. Detto questo, credo che spetti alla mamma e al papà di ogni bambino dire quello lì l'ha fatto, ha fatto un errore, meglio non rifarlo, meglio non stare a parlare con gli arbitri, meglio non litigare con gli avversari. Però questo è compito non del Poz, che ha sbagliato ed è evidente, ma lo sa perfettamente anche lui, ma della mamma e del papà. Questo è il mio parere. Simone Antonello, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno, convocatissimo. Eccoci. Tifoso del Napoli e anche di Zeman, soprattutto di Zeman. Quindi ho goduto due volte ieri sera. Lei critica Zeman legittimamente, ma io preferisco un Zeman che schiera Kossu, sì, Ekdal, giovani talenti come Sarias, e non vedere il Milan che è costretto per immagine, per portafoglio, comprare giocatori che sono ormai finiti. Cosa, sì, ne pensa? Ascolta per radio. Antonello, credo che non ci sia una verità assoluta, ripeto quello che ho detto prima, credo che sia essenzialmente questione di gusti. Poi è altrettanto evidente che le esigenze del Milan sono, per varie ragioni, le esigenze del Milan, quelle del Cagliari sono diverse, quelle della Roma sono diverse ancora, e a Roma, dove Zeman era stato chiamato con una squadra che poi è essenzialmente stata consegnata a Garcia con tutte le conseguenze del caso, ha fallito. Quindi evidentemente è un allenatore che è adatto a quel tipo di palcoscenico, a quel tipo di esigenze. Ripeto, non c'è un giusto o uno sbagliato. È evidente che la politica che fa il Cagliari è questa, e può, il Cagliari può permettersi Zeman, il Milan, l'Inter o la Roma stessa, uno come Zeman non se lo possono permettere. Poi quanto al resto è questione di gusti. Io continuo a considerare, ad esempio, l'ho detto molte volte, la partita dell'Inter a Barcellona con Mourinho un capolavoro, cioè una partita secondo me meravigliosa. Continuo a considerare tale quella partita, che fu poi quella che aprì all'Inter la strada del triplete. È chiaro che non fu una partita alla Zema, ma fu una partita in cui si vide abnegazione, concentrazione, impegno fisico estremo. Secondo me anche questo è calcio. Secondo me è molto meno calcio vedere una squadra professionistica che prende un gol su una rimessa laterale e poi sentire Zeman, che è un allenatore che fa giocare le sue squadre in modo libero, divertente, liberatorio quasi, non mi può dire un allenatore professionista: ah, questo ha tirato la rimessa, il fallo laterale a 40 metri, peccato, non lo sapevamo. Questo mi fa specie. Ma d'altra parte dico, anche la partita di ieri, il Cagliari ha fatto il Cagliari, Zeman ha fatto Zeman, è stato il Napoli a non fare il Napoli, perché ieri il Napoli ha fatto 1, 2, 3, 4, 5 passi indietro. Adesso è chiaro che non possono più raccontare a nessuno che vogliono competere con la Juventus e la Roma, che sono già andate via, ma non ci credeva nessuno nemmeno prima. Quel terzo posto mi sembra molto meno solido di quanto non si potesse pensare, perché Benitez non è Zeman, ma i difetti fisiologici, i difetti della fase difensiva del Napoli mi sanno tanto a questo punto di qualcosa di cronico e di difficilmente risolvibile, quantomeno in questa stagione. Ragazzi, ci sentiamo domani. Grazie a Franco Piantanita, nostro autore, Daniele Buonamici in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Domani, dopo il GR delle 14, siamo qui. Ciao a tutti. E saluto tutta la Filippogna, i filippini e le signore delle Filippine. Mio padre si chiamava John Kinsella. Si stabilì a Chicago, dove imparò presto a vivere e a morire con i White Sox. Morì un po' quando i White Sox persero la finale del campionato del 1919, e morì un po' anche l'estate seguente, quando 8 giocatori della squadra furono accusati di avere deliberatamente perso il campionato. Io mi chiamo Ray Kinsella. Mia madre morì quando avevo 3 anni e papà fece del suo meglio per tirarmi su. Invece di cappuccetto rosso, la sera a letto mi raccontava i trionfi di Babe Ruth, di Lou Gehrig e del grande Shoeless Joe Jackson. Avrei dovuto studiare lingua e letteratura inglese, ma eravamo negli anni 60. Manifestavo, fumavo l'erba, mi sforzavo di amare la musica pop e incontrai Annie. Adesso ho 36 anni, amo la mia famiglia, amo il baseball e sto per diventare un agricoltore. Ma fu solo quando sentii quella voce che feci la cosa più folle di tutta la mia vita. Generali Italia, soluzioni assicurative per te. Vediamo positivo. Vi ha presentato Tutti convocati.